Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 1 giugno, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio, ora in onda su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV, canale 118. Buongiorno anche ad Antonella Cortese, sempre qui con me da Parma. Buongiorno. Buongiorno Caterina, bentrovate e bentrovati. Allora, Antonella, la nostra cronaca sociale oggi ci porta a parlare di medicina, in particolare di Medici per i Diritti Umani, MEDU, che è questa organizzazione umanitaria indipendente nata senza fini di lucro nel 2004 a Roma, con l'obiettivo di curare e testimoniare, portare aiuto sanitario alle popolazioni più vulnerabili. Infatti, chi firma questo articolo è un medico, Ilaria Onida, coordinatrice per la Sicilia di MEDU, e il titolo è Il mondo sommerso dentro le carceri. Perché appunto Ilaria Onida racconta della professione che svolgono questi medici, dicendo che c'è un mondo sotterraneo verso il quale il nostro cervello resta in qualche modo non curante, che è proprio quello delle carceri. È un tema scomodo, spesso ingombrante, fin dall'antichità, che ci tocca anche da lontano. Lei prova a parlarne non come spazi chiusi e di mura invalicabili, ma vissuti da esseri umani. Cioè lei ci prova in questo articolo, devo dire ci riesce, è un articolo bellissimo, e cerca di dare voce alle loro storie. Lei dice, magari spesso siamo informati sul carcere, conosciamo anche il numero, il sistema, i dati del sovraffollamento, ma soltanto accidentalmente ci soffermiamo a pensare ai corpi rinchiusi al di là delle sbarre come a degli uomini meritevoli di ascolto e dignità. Allora lei dice, gli specialisti di MEDU in Sicilia, presso il carcere a città di Ragusa, hanno un compito altrettanto nobile e coraggioso, che è quello di curare e far emergere testimonianze di queste vite silenziose ancora più ai margini della nostra società. Quindi i medici e psicoterapeuti seguono da tempo le persone più fragili in esecuzione di pena e garantiscono il supporto necessario durante i colloqui alla presenza dei mediatori culturali che svolgono poi un ruolo centrale per i pazienti che non conoscono la lingua e che giungono nel nostro paese. Infatti immagino che ci siano anche molti assistiti provenienti da altri paesi, quindi persone migranti. Assolutamente sì, infatti quello che colpisce la nostra Ilaria Onida è che nell'offrire il loro supporto quello che più li colpisce è la solitudine dei migranti, una condizione, quella dello straniero, che li rende più soli nel mare e anche nell'isolamento che soffrono quando arrivano nel nostro paese. Di loro si parla nei processi, tra le tavole degli avvocati o d'ufficio, nelle riunioni dell'equipe psicopedagogica, ma mai ci si sofferma come società a parlare del loro mondo sommerso. E lei dice, ho fatto caso ai nuclei di famiglie che accedono allo sportello per la consegna dei pacchi, del vestiario, degli alimenti per da far arrivare i detenuti, e spesso sono mamme con bambini al seguito provenienti dall'entroterra locale, oppure donne arabe o del paese dell'est, tutte lì in coda che aspettano il loro turno per consegnare qualcosa al figlio o al marito. E sono tutte persone appese a un appello, cioè il momento in cui possono sapere quanto durerà la detenzione che aspetta il loro caro. Sì, infatti, oltre ad essere appesi all'appello, sono anche appesi alla lingua, perché l'incapacità di potersi esprimere è veramente una frattura profonda. E a questo punto ti chiedo, dove va a finire la dignità delle persone in queste condizioni? Come dicevi benissimo, la difficoltà anche della lingua. Le nostre carceri, dice Ilaria Onida, non riescono nemmeno delle volte a offrire un traduttore che chiarifichi la posizione delle persone che si trovano davanti, che nemmeno forse delle volte capiscono la natura del reato per cui sono state condannate. La dignità è un problema, perché sono persone che non hanno più i contatti con la famiglia molto spesso, che devono fare i conti con la scelta di un viaggio, spesso difficile, tormentato, l'abbandono. Abbandono forzato della propria terra d'origine, e quindi sono soprattutto loro, gli extracomunitari, una popolazione che per esempio a Ragusa raggiunge il 40%, a chiedere aiuto. Arrivano ai colloqui impauriti, spaesati, in cerca di rifugio, sono vittime di stati di ansia, panico, disturbi anche alimentari. E lei conclude dicendo: dobbiamo pensare come società a costruire nuove idee di progetto che possano garantire la nostra presenza come medici all'interno degli spazi carcerari, perché queste persone si interfaccino sempre di più con persone diverse, perché solo questo, questa osmosi, questo, come abbiamo detto anche la settimana scorsa, tra il carcere e la cittadinanza può essere la chiave di volta per fare in modo che poi ci sia veramente una inclusione sociale vera e propria, quando riterranno la libertà. Sì, infatti noi vogliamo costruire ponti, vogliamo avvicinarci. E qual è il brano che ci fai ascoltare oggi? Restiamo sempre con Elvis? Con Elvis, Suspicious Minds, ascoltatela, una canzone d'amore struggente del 1969 che racconta di un amore che non riesce ad andare avanti, ma sentiamo perché e innamoratevi di questa canzone. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. Rieccovi, bentornati su Liberi Dentro Edu Radio, sulle notti sempre del nostro Elvis Presley. Siamo invece con te, Antonella, no, mia collega da Parma, perché Edu Radio è dalle lunghe distanze sempre, collega persone da tante città diverse, e ci porti questa volta in Siria, dalla Siria al Belgio in realtà, perché c'è una storia. Sì, sì, infatti vi porto dalla Siria al Belgio con la storia di un musicista, Bassel, che nell'estate del 2015 è fuggito dalla Siria portando con sé la sua musica, ma purtroppo non il suo cane si chiama Stella. E provare a raggiungere clandestinamente l'Europa con un cane non è facile, ovviamente, non era pensabile, così purtroppo per un lungo periodo l'ha dovuto lasciare a Damasco in balia dei bombardamenti che terrorizzavano la povera Stella, e mentre il suo padrone partiva con altre 4 persone. Aveva 18 anni Bassel e 50 cd nel suo zaino, e soprattutto uno dei suoi cd che era stato capace di produrre a quel tempo grazie ad un incontro molto particolare. D'altra parte, partire senza portare con sé quello che lo rappresentava maggiormente, cioè la sua arte, gli sembrava un'azione assolutamente impossibile, e quindi fece di tutto per produrre questo album e partire. Bassel, tra l'altro, era un musicista che suonava il violoncello, ma senza grandi speranze. L'aveva fatto più che altro, aveva cominciato a studiare proprio perché il papà l'aveva un po', diciamo, istruito in merito, però la sua speranza, il suo piacere più grosso era quello di produrre musica. Ha sempre voluto fare un album, poi ha prodotto per la prima volta, appunto quando era ancora molto giovane, questo album che si intitola Quotob, in cui lui suonava il violoncello e altre persone suonavano lo zither, le percussioni e la tromba. E quindi, prima di lasciare il suo paese, è riuscito a pubblicare Quotob, come dicevi, e come ha fatto? Come ti dicevo, grazie a un incontro casuale. A Damasco c'era un piccolo locale frequentato solo da musicisti e artisti, e una volta entrò un signore africano e si mise a suonare il basso. E dato che in Siria non c'erano molti africani, vederlo suonare fu come un po' avere la più grande star di un club di jazz newyorkese, che si esibiva proprio per questi ragazzi. E erano rimasti tutti attoniti e poi scoprirono che questa persona altro non era che Alphonse Munyaneza, un funzionario ruandese dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che era anche un musicista e un ex rifugiato. E quindi cominciò a intessere un rapporto con questa persona che dopo una decina d'anni lo aiutò ad arrivare in Europa. Ma quindi poi è riuscito a partire? Sì, è riuscito a partire, e del viaggio che l'ha portato da Damasco fino al campo per richiedenti asilo vicino alla città belga di Hasselt lo ha raccontato in un libro per bambini che si chiama Saving Stella, pubblicato dalla casa editrice britannica Bloomsbury nel 2020. Anche questo libro, come un po' tutte le cose che sono successe a Basel, è frutto di un incontro casuale, in questo caso virtuale in realtà, perché dopo il suo arrivo in Belgio, Bassel ha lasciato per fortuna abbastanza rapidamente il campo di Hasselt e si è trasferito a casa di una famiglia belga che lo ha aiutato, e ha aiutato anche Stella, il suo cane, ad arrivare fino a Bruxelles. La storia di Stella poi è interessante, perché Stella è andata in taxi da Damasco a Beirut, poi ha preso un aereo da Beirut a Bruxelles, ed è stata, e tutto questo viaggio è stato ripreso da alcuni cinofili che sono stati poi a sua volta visti, seguiti da una scrittrice americana, Deborah Blumenthal, che ha deciso di proporre a Bassel di scrivere un libro su questa storia. E Bassel però ha precisato subito: per me va bene, voglio scrivere una storia, ma non voglio mentire a nessuno, nemmeno ai bambini. Il libro in effetti è consigliato ai bimbi e alle bimbe tra i 5 e i 7 anni, e il suo arrivo in Belgio, vi voglio leggere proprio le righe scritte da Bassel, è questo. Bassel non era ancora libero, è stato rinchiuso in un campo per rifugiati come un prigioniero. La vera accoglienza, spiega lo stesso Bassel al suo giovane pubblico, non è quella istituzionale, è quella di cittadine e cittadini che respingono le politiche disumanizzanti dei loro governi. Il centro profughi, infatti, di Moria, in Grecia, non era che la variante più estrema di un modello pseudo-accoglienza punitivo e sempre più privatizzato. Bellissima storia, e alla fine di questa storia che brano possiamo lanciare, sempre di Battiato? Allora, alla fine di questa storia lanciamo il brano del 1988, E ti vengo a cercare. Famosissimo, lo conosciamo tutti e ci ha accompagnato per tanti anni. Ben ritrovati, ora diamo la parola a Fabio e a Lorenzo di ASP Città di Bologna, le pillole solite che ci producono per parlare con le istituzioni dal carcere alla cittadinanza, e continuiamo l'intervista a Susanna Zaccaria, assessora alle pari opportunità. Io volevo proseguire dicendo che sappiamo insomma che lei è molto attenta alle connessioni tra associazioni di volontariato e persone detenute, in questo caso parlo dell'area carcere. Come è stato valorizzato e come si pensa di valorizzare nel futuro questo legame? Dunque, le associazioni di volontariato hanno un ruolo importantissimo, ce ne sono di consolidate a Bologna che operano da tanti anni, che hanno una connessione con le istituzioni che va dal singolo progetto, diciamo un coinvolgimento più generale nelle politiche, quindi come dire ogni volta che si sostengono queste associazioni vengono valorizzate in sé. Io per esempio questi anni avevo molto lavorato sul femminile, perché c'è un progetto che si chiama, faccio questo esempio perché diciamo la caratteristica un po' delle, no, delle risorse a disposizione, certo, diciamo così, fa sì che essendo molto meno le donne detenute anche le risorse destinate ad alcuni programmi, sì, siano inferiori, questo è logico, sarà così, è normale che sia così. Nello stesso tempo invece grazie anche all'attività di una nostra consigliera che se ne occupa da anni, quel progetto Non Solo Mimosa, si è riuscite qui ancora in maniera ancora diversa se possibile, quindi neanche tanto partendo solo da associazioni ma partendo proprio da donne volontarie, sono professioniste che mettevano a disposizione la loro capacità ed è finita che sostanzialmente, io vi racconto questa via, tutto noi entravamo sia per marzo, sia per l'8 marzo che per il 25 novembre in carcere a parlare con le ragazze detenute, e l'ultima volta che siamo andati che si poteva abbiamo portato un progetto, l'idea di un progetto nuovo, non c'era una che avesse tempo di occuparsene perché era talmente diventata fitta l'agenda, forza di inserire, no? Nuove, sì, attività, sì, sì, studiare questo, guardare quello, il teatro e la scrittura, i capelli, il ballo, lo yoga, non so più cosa facevano, e quando siamo arrivati dicendo ci sarebbe questa possibilità, loro erano contente, però dicevano no, ma io martedì non posso, e questa cosa, chiaramente che sto dicendo così in questo modo, è stata drammatizzante. Descrive un scenario attivissimo. Oh, io ero contenta, cioè io ero sollevata a un certo punto quando il video ho detto, beh insomma meno male, perché comunque credo proprio che dia una prospettiva completamente diversa, per non parlare di quello poi che le associazioni riescono a fare quando garantiscono anche poi un lavoro futuro, una formazione, quindi non solo come passo questo tempo ma che cosa posso imparare per mettere a frutto quando non sarò più qui, quindi sono... Certo. Ecco, la prospettiva secondo me passa un po' da quell'idea di progetto che accennavo prima, in cui chiaramente le associazioni di volontariato avrebbero avuto la parte del leone, che non siamo riusciti a fare, che io spero però che nei prossimi anni insomma la nuova amministrazione possa, speriamo, mettere in pratica. I've been all around the world, bought everything from diamond to gold. No matter where I go or what I buy, I'm still a country boy in my soul. So take me to the country, nothing but skies and pine. Oh, follow me to the country where we can have a real good time. Well, the folks in the country don't live too fast. Got good mannerism and spectacular class. Take me to the country, nothing but skies and pines. Oh, follow me to the country where we can have a real good time. Take the cloud as your pillow, the grass as your bed. I know you smell the sweet aroma of that hot water cornbread. Take me to the country, nothing but skies and pine. Oh, follow me to the country where we can have a real good time. Per quel che riguarda invece l'ambito della formazione in carcere, da questo punto di vista qui cosa si sta facendo? Beh, c'è la scuola, cioè, diciamo, c'è tutte quelle attività formative che sono in qualche modo istituzionalizzate, ma io quando parlo di formazione lo volevo fare in maniera proprio un po' più ampia, oltre a quella che è veramente una scuola italiana, insomma la possibilità di prendere il diploma e tutte le cose che sappiamo. Certo. E quindi per me formazione è anche formazione personale, nel senso che faccio un corso di teatro che non mi fa diventare un attore professionista, ma mi avvicina alla letteratura, a un autore, e quindi formazione in senso proprio anche di accrescimento personale su cose che ci sono delle persone che non avrebbero avuto possibilità di vederle, di farle, di metterle in pratica, di sperimentarsi. Sembrano piccoli sassolini, però io sono poi una da politica dei piccoli passi, nel senso che quando si può pensare a una riforma che, dicevo, non vedo molto nell'aria, bisogna che noi andiamo avanti un passo per volta, è un passo però importante. Credo che tante persone abbiano potuto davvero avvicinarsi a temi, riflessioni, ambiti, magari con grossa fatica o iniziale disinteresse, però credo che sia molto utile. Certo, certo. Per quel che riguarda l'emergenza pandemica, diciamo, come è stato gestirla in questo periodo difficile, cosa si farà, e soprattutto, per dirlo un po' anche alla cittadinanza, visto che ci ascoltano dalla radio, dalla TV, che ruolo ha l'amministrazione pubblica locale in questo? Dunque, da subito teniamo presente che i fatti che hanno riguardato anche la rivolta hanno praticamente coinciso quasi con l'inizio della pandemia, perché era marzo dell'anno scorso, quindi è stato un altro evento che è andato a inserirsi in un contesto veramente molto difficile anche per noi. Questo io lo dico perché come amministratori dobbiamo anche poi essere onesti, nessuno ha precostituito delle soluzioni in situazioni che nessuno ha mai affrontato prima, quindi per me è stato difficilissimo, cioè una preoccupazione e anche proprio una tensione in quei giorni. Intanto l'idea, per come la stavamo vivendo da fuori, facevo tanta fatica a immaginarmi cosa poteva essere visto da dentro. Tolte quelle poche boccate d'aria che sono gli incontri con le famiglie, alcune attività, quindi non so come dire, forse era prevedibile, insomma è stato un evento comunque. Un evento che purtroppo ha avuto tante motivazioni, ecco. Non voglio entrare nella comprensione di alcuni fatti che sono stati gravissimi, che hanno aggravato tantissimo anche la condizione di chi lavora lì, perché non ci dimentichiamo mai del personale che lavora nelle carceri. Certo, ecco. Per cui, diciamo, vedendo proprio tutto da tutti gli aspetti, però capendo la tensione che tutti vivevamo lì, deve essere stato un dramma veramente notevole. E soprattutto perché non si capiva niente, quindi non capivamo noi, figuriamoci in quel contesto. Certo. La collaborazione a livello istituzionale è stata subito, abbiamo dato tutta la disponibilità possibile per quel che potevamo fare, a livello di disponibilità di mascherine, parlo di cose un po' pratiche, però diciamo in quel momento lì la direzione ha gestito nel miglior modo che poteva fare, davvero, ha fatto un ottimo lavoro, perché pensiamo alla gravità dei fatti, una cosa da film, se mi consenti. Gestire un'emergenza di questo tipo. Cioè, io ero a casa, perché eravamo tutti a casa, dicevo, stiamo gestendo una rivolta nelle carceri, in una pandemia mondiale, cos'è, un film di fantascienza? Sì, sembra esatto un film. Cosa che non pensi mai di trovarti a gestire. E posso immaginare la dirigenza che cosa si è trovata a dover affrontare, quindi massimo rispetto per il lavoro che hanno fatto, che è stato eccellente. Secondo me il punto di forza è stato quello che più o meno c'è sempre, che è quello della collaborazione un po' tra tutte le istituzioni che sono coinvolte in ambito carcerario, a partire da noi, ma in questo caso con un passo indietro, erano fuori, si è fatto quello che si poteva, ha funzionato proprio perché appunto si è cercato di agire un po' tutti insieme. È chiaro che anche questo deve far riflettere, cioè succede anche in un carcere che non è sovraffollato, torniamo al discorso del personale, di quanto deve essere, di quanto deve essere formato, di che condizioni di lavoro fornisce anche chi è lì dalla mattina alla sera, condivide la vita carceraria con chi c'è dentro, quindi succede anche in una situazione meno tesa, non lo so, forse sì, non lo so, è uno spunto di riflessione, però sicuramente hanno fatto tutti il massimo che potevano fare rispetto anche alla pericolosità, anche per il personale che era lì. if ever you think you deserve my loving, then I'm telling you now, you can't have me no more. Can't have me no more. Can't have me no more. Can't have me no more. Can't have me no more. Can't have me no more. Can't have me no more. Intervento termina qui. Ci rivediamo presto con nuovi approfondimenti da chi vive per chi vive il carcere. Non dimenticatevi di scrivere a Liberi Dentro e Duradio sui social, Instagram e Facebook, se avete domande o richieste per le prossime puntate. Ciao a tutti. Ben ritrovati, abbiamo appena ascoltato le parole dell'assessora all'educazione, scuola, pari opportunità del Comune di Bologna, Susanna Zaccaria, questa pillola cura di ASP Città di Bologna. Noi ci ridiamo appuntamento tra poco con le rubriche Oggi parliamo di, dove avremo i dialoghi con la cittadinanza, dove il nostro Ignazio De Francesco intervisterà Guido Bertagna. E ci ridiamo appuntamento domani, sempre ore 9 Radio Città Fujiko, ore 10.30 Teletricolore, mentre ore 13 sempre l'Epida TV canale 118. Mi raccomando, scriveteci, redazione liberidentro@gmail.com oppure Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40 136 Bologna. Grazie ad Antonella Cortese, sempre qui con me in redazione, e al nostro Pasquale Pitaniello in regia al montaggio delle nostre puntate, e soprattutto grazie a voi che ci state sempre a seguire e ad ascoltare, e ovviamente scriveteci sempre. Buona giornata a tutti e a tutti. Liberi Dentro e Duradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.